oggetto di 30 anni fa che viene rievocato in un anniversario quest'anno in un concerto che si svolgerà a Savoniero di Palagano sull'Appennino modenese. Davide, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È un piacere di sentirti, tu sei il direttore artistico, credo anche dell'intero festival, è una 2 giorni, oltre che sei chiamato in causa ovviamente anche come artista in quanto sei il frontman, il cantante di Modena City Ramblers. Esattamente, esattamente, sono io che gestisco un po' tutta la parte artistica, i gruppi, soprattutto per sabato 4. La rievocazione del concerto di 30 anni fa. Infatti ne parlo volentieri perché io andai a quel concerto che purtroppo fu gravato dalla pioggia che io non presi. Ti nemmeno... ricordi il fango quindi? Sì, anche se io devo ammettere che ero preparato, nonostante ci fosse gente molto sbracciata, leggera, io avendo visto le previsioni ero attrezzato credo che il concerto non fu neanche ultimato, non mi ricordo chi rimaneva, mi sa un paio di gruppi dovevano ancora suonare. Sì, perché cominciavo veramente a piovere molto forte. Infatti, c'erano queste nuvolone bassissime. Senti, a quei tempi un bellissimo progetto che poi diede vita anche a un documentario e a un disco, oltre a questo bellissimo concerto in un luogo simbolico, perché se non mi sbaglio la casa, la colonica, era una casa colonica dove transitavano partigiani. A quei tempi eravamo un po' all'inizio del berlusconismo, adesso siamo quasi messi peggio, per cui credo sia veramente importante rievocare quell'atmosfera quando c'era questo impegno da parte di tanti gruppi di una scena indie italiana che ai tempi era molto fiorente. Assolutamente molto importante, importante intanto perché l'anniversario 30 anni è un anniversario importante, ma importante soprattutto perché sono concetti, valori e ideali che vale la pena. Esatto, quindi stavamo parlando appunto della necessità di fare questo happening, a cui tra l'altro parteciperanno molti protagonisti anche di quella giornata e anche ovviamente del disco. Assolutamente, l'idea iniziale era quella di contattare tutti quelli che hanno partecipato ed è quello che poi abbiamo fatto. Qualcuno non potrà esserci perché magari aveva già degli impegni, postare, ma c'è stata un grande entusiasmo, grande voglia di partecipare, di esserci, quindi ci saranno Africa United, Gang, Yo-Yo Mundi, Noi Modena ovviamente, ci sarà Luca Morino con Tate Songan dei Mau Mau, la Mara Redichieri, insomma, anche perché alcuni gruppi non esistono più, ahimè, quindi ci sarà chi li può rappresentare in maniera degna, come Giorgio Canali con Rosso Fuoco, a rappresentare tutto quel movimento che è stato CCP, CSI nel corso degli anni. Quindi siamo riusciti a fare una bella cosa e la cosa che mi piace sottolineare è che da parte di tutti coloro che parteciperanno c'è stato un grande entusiasmo e una grande voglia di esserci, perché anche sono tutti gruppi, come dicevi tu, erano una bella parte della scena indie di quegli anni e hanno assolutamente voglia di partecipare a questo evento e ribadire quei valori e quegli ideali che 30 anni dopo abbiamo ancora bisogno di seguire. Senti, non siamo più nella Bassa, vicino a Correggio, ma in una zona che ha una forte valenza simbolica, perché è una zona di forte presenza partigiana, anche vicino tra l'altro a Montefiorino, dove sorse la famosa Repubblica. Noi sogniamo a Savoniero, che da qui si vede proprio la rocca di Montefiorino, perché è dall'altra parte della valle, ma la Val Dragona è una valle molto stretta, quindi siamo in piena zona della Repubblica, della Libera Repubblica di Montefiorino, siamo in zona dove ogni angolo, ogni albero ricorda la lotta di liberazione partigiana, una zona che trasuda liberazione e i valori della resistenza, quindi ahimè ci sono state anche delle stragi importanti nazifasciste, quella proprio di Monchio, Costrignano, Susanna e Savoniero, e quindi per noi è importante. Sono già un po' di anni che organizziamo questo festival resistente estivo, secondo weekend di giugno, vicino al 18 giugno, che è l'anniversario della nascita della Repubblica di Montefiorino. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più, di fare qualcosa di veramente importante, ed è un festival che ci dà grandi soddisfazioni sia per le cose che raccontiamo, quindi la memoria della resistenza, sia perché riusciamo a valorizzare il nostro territorio della montagna, che è uno dei motivi per cui facciamo queste cose in montagna, per dimostrare che anche in montagna le cose si possono fare, ma anche perché insomma portare un festival di questo tipo sull'Appennino, vederlo crescere, vedere tanti ragazzi della zona che hanno voglia di impegnarsi, di fare e di dimostrare che queste cose si possono fare, è veramente bello. Tra l'altro il festival è una 2 giorni e ci sono anche altre cose, vedo che ci sono attività anche per i bambini, insomma ovviamente ci sarà un punto ristoro per tutti. Tanti punti ristoro, come ti dicevo, noi vogliamo valorizzare anche quello che è il nostro territorio, quindi tutti i punti ristoro sono gestiti dalle varie associazioni del territorio, quindi avremo i famosi ciacci di Palagano, avremo le tigelle, le crescentine, per intenderci, avremo tante proposte culinarie, avremo il vino della cantina di Pavullo, la birra del birrificio dell'Appennino che è lì a Palagano, quindi cibo e bevanda chilometro zero. Il sabato ci sarà il grande concerto di materiale resistente, la domenica mattina spazio ai bambini con giochi di ruolo a tema, rievocazione storica col campo partigiano, poi ci sarà la pasta asciutta antifascista a mezzogiorno e poi nel pomeriggio i gruppi locali della zona e mi piace sottolineare che sono artisti veramente validi, perché c'è tanta gente che fa dell'ottima musica in montagna, non cito alcuni, c'è Emiliano Mazzoni, c'è Pelle Gatta, c'è Io Sono Moca, Isabuna, tanti dei gruppi da venire ad ascoltare, per chi avrà voglia magari di rimanere anche dalla sera prima, perché ci sarà la possibilità anche di campeggiare, di fermarsi con le tende, con i camper, quindi insomma è in piccolo è un vero e proprio festival. Senti, per i più pigri, il festival si svolge al Parco Don Sante Bartolini in via Casa Giambattista a Savoniero di Palagano in provincia di Modena, e magari uno dice ma ci andrei anche, però lì collina, montagna, sbattimento, lì immagino sia semplicissimo venire, c'è spazio parcheggio per tutti? Spazio parcheggio ci stiamo organizzando in questi giorni per tagliare l'erba a zero in tanti bei prati dove si potrà parcheggiare, c'è spazio per parcheggiare, sembra chissà dove il posto, ma da Sassuolo, che insomma è raggiungibile in un quarto d'ora 20 minuti dall'uscita di Modena Nord, per intenderci, da Sassuolo si arriva in neanche mezz'ora a Savoniero di Palagano, si sale facili, il posto è attrezzato per questi eventi. Tanto per farvi capire, è dove ormai da decenni si svolge il più importante festival di musica country del nord Italia. Savoniero Country Fest è il festival country più importante di tutto il nord Italia, ogni anno arrivano gruppi a suonare dal Texas e dagli Stati Uniti, per intenderci, quindi sono ben attrezzati per questo tipo di eventi. C'è da fare un pochino di strada, ma neanche troppa, ma ne vale veramente la pena. Ok, quindi un invito per tutti il sabato 14 giugno per materiale resistente 1945-1995. Davide, io ti ringrazio e ovviamente appuntamento su da voi a Savoniero il 14 giugno. Grazie, e io procedo sempre con la raccolta materiale resistente con il partigiano John di Africa Unite. Grazie Davide, ciao, un grazie abbraccio. Grazie a voi, grazie, un abbraccione, ciao. Alla prossima.